Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 9 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. I temi di questa giornata economico-finanziaria: parleremo della Banca Centrale Europea che, come ampiamente atteso, ha lasciato i tassi di interesse invariati, anche di nuovo del richiamo, chiamiamolo così, che arriva da Bruxelles sull'Italia e sul debito italiano, faccia più sforzi, vedremo i risultati della spending review, per cui, e quindi non modifica, diciamo, la sua posizione Bruxelles da questo punto di vista, ma parleremo anche dell'agenzia di rating Moody's che ha dato un giudizio abbastanza critico sulle assicurazioni italiane, del nuovo piano di Ferrovie dello Stato, ma anche e soprattutto, oltre appunto ai temi già toccati, del fatto che la protesta organizzata dagli allevatori e coltivatori della Coldiretti contro le schifezze del finto Made in Italy si sia spostata dal Brennero a Roma, con migliaia di allevatori che hanno portato i propri maiali davanti al Parlamento per chiedere alle istituzioni di adottarli per salvare le stalle italiane. Dopo che denuncia la Coldiretti, solo nell'ultimo anno sono scomparsi dal territorio nazionale 615.000 maiali intesi come suini, intesi come animali, sfrattati dalle importazioni dall'estero per realizzare falsi salumi italiani di bassa qualità. E qui però ci sono posizioni un po' distinte, perché per esempio chi ha ascoltato la puntata di oggi di Effetto Giorno sa che i produttori di carne riuniti nell'associazione ASSICA, l'industria delle carni, dicono che questa è una protesta strumentale, perché ci sono 6.500 imprese italiane che ogni giorno ricevono 2.800.000 analisi di autocontrollo, sono circa 1 miliardo di analisi all'anno. E qual è il timore? Il timore è che questa battaglia poi possa avere un effetto boomerang su alcune imprese italiane, per cui attenzione, è giustissimo denunciare la contraffazione, lo facciamo da anni anche noi, ma non solo la contraffazione, anche l'Italian Sounding. Altra cosa è capire che cosa stiamo bloccando con questa protesta. Di più, come temi di questa puntata, cito anche un rapporto che, ahimè, lancia un'ombra, non lo so se sia un'ombra, a noi sembrano cose arcinote visto che ne parliamo ormai da anni, ma insomma il bilancio sociale dell'INPS relativo al 2012, e quindi di un anno più leggero rispetto al 2013 quanto a andamento economico, nel 2012 il potere d'acquisto delle famiglie italiane è crollato del 9,5% e nell'ultimo anno ha fatto un meno 5%. Per cui nei 4 anni considerati dal bilancio sociale dell'INPS, la sommatoria fa il 9,5% del crollo in realtà 2008-2012, con un meno 5 nell'ultimo anno, però vuol dire perdere un potere d'acquisto in media del 2% all'anno dal 2008 in poi. Ancora 4 milioni di persone hanno usufruito di ammortizzatori sociali nel 2012, quindi sempre l'anno scorso. 1.600.000 persone è scattata la cassa integrazione della mobilità, e poi si fanno sentire anche gli effetti della riforma Fornero, perché il numero di nuove pensioni è sceso del 7,5%. Vengono lanciati però anche segnali di allarme importanti, perché si dice attenzione, nell'area euro, e questo dato arriva da Eurostat, nell'area euro solo la Grecia ha dati peggiori di quelli italiani a livello di dato statistico e anche a livello di povertà, perché il 29,9%, lo dice Bruxelles in questo caso, della popolazione italiana rischia di diventare povero, in Grecia il 34%. Pensate che i dati sono tutti in peggioramento da un anno all'altro. La popolazione a rischio in Spagna si ferma al 28,8%, quindi più bassa di quella italiana. Poi sappiamo che da noi c'è anche molta evasione, molto nero, la statistica può essere sballata, ma a questa facciamo riferimento. In Portogallo al 25%, e in altri paesi tipo la Germania siamo al 19%, la Finlandia al 17%. l'Olanda al 15. Per trovare paesi peggiori dell'Italia, secondo la classifica Eurostat, sul rischio povertà bisogna uscire dall'area euro e andare in Bulgaria, siamo al 50%, Romania 41%, Lettonia 36%. Per quello che riguarda invece la borsa, così concludo con i temi di questa puntata, resta debole il mercato, non si è mai ripreso da questa mattina e soprattutto poi dal peggioramento nel corso della seduta, -1,5% Milano, peggio sicuramente di Francoforte che perde solo mezzo punto percentuale, peggio anche di Parigi che perde l'1%, Londra -0,17%, gli Stati Uniti -0,30%. Per quello che riguarda la borsa segnalo alcuni titoli, in particolar modo Popolare Emilia Romagna -3,70%, Fiat -3,40% come Buzzi Unici, il 3,20% lo perde Monte dei Paschi, il 3% è il calo di Intesa San Paolo, A2A -2,70%, Unicredit -2,5%, Pop Milano -2,40%, Mediaset -2,20% come CNH e Telecom Italia, ma anche UbiBanca e il Banco Popolare. Di positivo Fondiaria Assai +1,90%, Autogrill +1,80%, G-Tech +1,20%, Campari +0,60%, Tod's -0,5% di rialzo. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Allora, per quello che riguarda le altre notizie in breve, già anticipavo la vicenda Moody's, adesso ci arriviamo. Sul fronte internazionale, il PIL americano ha segnato nel terzo trimestre un rialzo del 3,6%, è la crescita maggiore da inizio 2012. La Banca Centrale Europea, spostiamoci subito in Europa, ha lasciato i tassi, come ampiamente previsto, invariati allo 0,25%, ha detto Mario Draghi, i tassi resteranno bassi a lungo, useremo tutti gli strumenti, ma ne parliamo anche fra un attimo come approfondimento. Invece dalla Francia arriva un dato sulla disoccupazione nel terzo trimestre che segna un nuovo record dal 1997. Quindi al 10,5%. Del rischio povertà in Grecia e Italia abbiamo detto e parleremo nella seconda ora del programma. Dicevo, per quello che riguarda invece l'Italia, oltre al nuovo richiamo di Bruxelles, di nuovo il portavoce del commissario Olli Rehn ha detto l'Italia deve fare uno 0,4% in più di sforzi strutturali supplementari per assicurare l'obiettivo di riduzione del debito. Vedremo nelle prossime settimane se la spending review anticiperà risparmi al 2014, ma mi sembra difficile, però. E di nuovo Olli Rehn. Io non capisco Olli Rehn in sto periodo, comunque. Ma perché adesso? Cioè, andate a vedere quello che è il deficit spagnolo e francese e vedete che hanno fatto sforzi molto inferiori ai nostri. Abbiamo un debito più alto, ci mancherebbe. Però, quando ragioniamo di politiche non solo di rigore ma anche di crescita, per cui è inutile impiccare un paese allo 0,3% in più e meno del deficit, l'America ha un deficit vicino al 6% e guardate che numeri sta facendo sulla crescita economica. Stiamo scherzando oppure parliamo seriamente? Perché poi mi sembra che questi euroburocrati vivono in un altro mondo e poi ripetono come un mantra, come parole, diciamo, yoga, un om, però deve stare al 3%. Ho capito, ma che differenza fa un 3.2, un 3.4, un 2.9? Che differenza ha mai fatto su questo? Fateci sapere invece quali iniziative, anche con accordi tra Bruxelles e il singolo paese, possono essere prese per liberare un po' di risorse, perché qui obiettivamente se no la ripresa si allontana. Questo chiedo. E poi noi continuiamo, lo dico anche a chi sta scrivendo, a mantenere un doppio binario. Da un lato l'Italia deve tagliare drasticamente le spese improduttive, gli sprechi, le ruberie della pubblica amministrazione, e vale anche per gli enti locali, regioni soprattutto, ma anche qualche provincia e qualche comune, e ridurre gli sprechi della pubblica amministrazione. Dall'altro però l'Europa deve smetterla di pensare, dopo 3 anni e dopo i numeri che vediamo, che questa ricetta tedesca abbia qualche efficacia sulla ripresa economica, ce l'ha solo per la Germania. Si possono tenere assieme le due cose, perché adesso vedo che c'è una gran corsa a essere improvvisamente tutti anti-Europa. No, facciamo i compiti nostri, non vorrei che poi questo nascondesse in fase di campagna elettorale che tutta colpa dell'Europa, noi continuiamo a sprecare, a sperperare come prima. Detto questo, la CISL oggi ha raccolto già, ha annunciato di aver raccolto già 118.000 firme contro gli stipendi d'oro, e ha portato alla Camera, sia CISL che FIBA, una proposta di legge per portare le retribuzioni di banchieri e non solo banchieri, anche dirigenti di società quotate ad un massimo di 20 volte quelle dei loro dipendenti, e quindi con un tetto di 300.000 euro, e poi potranno essere aggiunti premi non superiori alla parte fissa del compenso una volta però raggiunti i risultati. Ancora, per quello che riguarda le assicurazioni, dicevo di Moody's, le compagnie assicurative italiane presentano un notevole rischio di concentrazione in titoli sovrani, la qualità dei loro attivi è dipendente in larga misura dalla qualità del credito sovrano italiano, cioè dice l'agenzia di rating, dopo Standard & Poor's anche Moody's, che a penalizzare le assicurazioni oltre che le banche italiane è il fatto che abbiano troppi titoli di Stato italiani in pancia. Però qui dobbiamo capirci, perché insomma adesso non li devono più comprare, li devono comprare, cosa devono fare? Perché la polemica di Mucchetti, che adesso fa appunto il senatore, presidente della Commissione Industria, è molto chiara, è una polemica che era iniziata a fine novembre, se le indiscrezioni sono esatte, disse Mucchetti, Standard & Poor's si accinge ad avviare un processo che metterà il declassamento delle generali da A- a BBB solo perché è italiana, questa è l'accusa, non per il vero stato patrimoniale, ma solo perché è italiana. E Standard & Poor's infatti ha messo sotto osservazione il voto delle generali. C'è anche la Consob che si è mossa su questo, perché l'autorità di vigilanza sta cercando di capire e vederci chiaro sull'iniziativa di Standard & Poor's sulle generali, per capire l'ordine dei tempi, dei fatti e dei giudizi. E tutto poi per sottoporre all'autorità europea di vigilanza sui mercati, l'ESMA, i dubbi e anche il rischio che Standard & Poor's venga accusata di abuso vero e proprio nel suo modo di agire. Tra l'altro la stessa ESMA ha diffuso, e quindi l'Agenzia Europea di Vigilanza sui Mercati, ha diffuso un rapporto sui metodi di lavoro delle tre grandi agenzie di rating, Moody's, Standard & Poor's e Fitch, rispetto alle valutazioni dei debiti sovrani, cioè al voto di ogni paese, esprimendo quindi anche l'intenzione di andare a fondo per quanto attiene all'indipendenza, la necessità di evitare conflitti di interesse e la confidenzialità delle informazioni, nonché il timing, cioè il momento quando si decide di far uscire certi voti su paesi ma anche su singoli titoli. Chiudiamo con le Ferrovie dello Stato. Oggi il numero uno, l'amministratore delegato Mauro Moretti, durante la presentazione del nuovo orario invernale, ha detto che il 2013 è andato un po' meglio del 2012 come conti. Per il 2014 stimano un aumento del traffico del 3%. Ha detto che è ancora presto perché Trenitalia sbarchi in borsa, ci sono tante altre cose da mettere sul mercato. E per quello che riguarda l'Italia ha escluso di entrare sulla parte inoptata, quindi non sottoscritta dell'aumento di capitale, e ha aggiunto per all'Italia serviranno altri, ben altri interventi, e a giorni poi ha confermato che arriverà la nuova tranche dell'obbligazione da 750 milioni di euro delle Ferrovie dello Stato. Ha chiarito però al nostro Leonardo Rossi, sempre Moretti, che i soldi investiti fino adesso non sono comunque sufficienti, servono secondo Moretti almeno altri 3 miliardi. Arriviamo a fare operazioni di investimento nostre in autofinanziamento di 3 miliardi, ho risposto a coloro che mi hanno chiesto se erano sufficienti, ho risposto che secondo me non sono sufficienti, ma noi questi li deriviamo da quelli che sono i contratti che l'impresa fa. Per le cose che non sono contrattualizzate, perché non c'è una domanda, non possiamo dare un'offerta. In quel caso io ritengo, per poter risolvere i problemi del trasporto pendolare delle grandi città, soprattutto nelle ore di punta il problema è rimasto il grande affollamento, mentre sono migliorati altri parametri come puntualità, anche la pulizia, ma l'affollamento è rimasto una cosa drammatica, occorrono più investimenti, io stimo questi in altri 3 miliardi. Già molti sms, alcuni anche polemici. Volete le mie scuse nei confronti degli allevatori splafonatori, quelli che non rispettavano le quote latte? Ma siamo impazziti? Altra cosa è attaccare, come abbiamo attaccato e criticato il ministero, che ne ho parlato ancora un mese fa, se non ricordo male, 3 settimane fa, che nel stabilire quanto latte venisse prodotto in Italia avevano dato un'età di vita alla vacca di 88 anni, si chiama vacca veramente in termini anche proprio tecnici, di 88 anni, quando poi, se va bene, una vacca munge per 20, mi scrivono gli agricoltori, 7, 8, magari 20. Ecco, quell'incompetenza lì l'abbiamo criticata, e sarebbe anche caso che qualcuno pagasse, visto che in questo modo cosa è successo? È successo che praticamente siamo riusciti a dire a Bruxelles che producevamo più latte con queste vacche praticamente che non muoiono mai, continuano a produrre latte, e ci siamo beccati anche quindi delle quote peggiori. Quella è un'incompetenza del ministero e di chi era preposto a dare il dato. Non c'entra nulla con chi non ha rispettato, e sono una quota minoritaria le quote latte di Bruxelles, e ci sono beccati in tutto, se non ricordo male, 4 miliardi di euro di multe in questi anni, parte delle quali causate anche dall'incompetenza dei funzionari. Mi aspetto che vengano rimossi, ma non ci scommetto. Invece alla Regione Lazio, scusatemi se torno sulla Regione Lazio, però intanto il procuratore di Rieti, Giuseppe Saieva, ha firmato 14 decreti di iscrizione nel registro degli indagati per l'inchiesta sui fondi del gruppo del PD alla Regione Lazio. Le ipotesi di reato sono peculato, falso e finanziamento illecito. Ci sono l'ex tesoriere e consigliere regionale del PD, Mario Perilli, l'ex capogruppo alla Pisano, ora sindaco di Fiumicino, Esterina Montino, l'ex consigliere del PD Enzo Foschi, ora capo segreteria del sindaco di Roma Marino, e l'ex consigliere Giuseppe Parroncini. E questo è un fronte. Nel frattempo il Consiglio regionale del Lazio non riesce a trovare un accordo per tagliare poltrone e aziende partecipate. La proposta della giunta Zingaretti prevede il taglio di 75 poltrone, da 88 a 13, attraverso la fusione e lo snellimento delle diverse società regionali. Chi è che sta facendo ostruzionismo? Io non capisco perché, veramente non lo capisco. È il Movimento 5 Stelle. Ha presentato 1000 emendamenti in aula e adesso... tra l'altro non ho capito perché, il perché di questo ostruzionismo, ma temono l'arrivo di potentissimi manager e quindi insomma presentano emendamenti. E poi c'è anche l'opposizione del centrodestra che si oppone allo smantellamento della struttura creata durante la giunta Storace. Giunta Storace, lo dico per inciso, che è corresponsabile nel buco miliardario della Regione Lazio, perché è iniziato anche lì. Quindi Storace, è vero, poi c'era Marrazzo e poi tutto il resto. Però andiamo a vedere le date del buco sanitario e si oppongono. Pensate che dall'arrivo della nuova giunta la regione ha già dovuto sborsare 50 milioni di euro per tappare i buchi delle 103 aziende regionali, a cui si aggiungono anche agenzie ed altre agenzie ed enti. Sono quasi 8.000 dipendenti di queste società regionali, sono più del doppio dei dipendenti della stessa regione. E poi c'è Lazio Ambiente, vogliamo fare un caso su tutti. Lazio Ambiente è nata nel 2011. L'unico scopo di Lazio Ambiente è stato assumere 487 dipendenti di un gruppo di società ambientali fallite che facevano capo a una cinquantina di comuni laziali. Costo per la regione altri 20 milioni di euro. Regione che ha un buco finanziario, solo finanziario, di 11 miliardi e 7, ma il buco complessivo dell'indebitamento è ben più alto, ce ne sono 12 miliardi, se non ricordo male, era 24 miliardi complessivamente, di cui 12 solo nei confronti dei fornitori o in grande parte per i fornitori. Complimenti, complimenti ai 5 Stelle e al centrodestra. Poi vorrei sapere invece, per quello che riguarda il PD, cosa farà il capo segreteria del sindaco di Roma Marino, perché quando ti arriva un avviso di garanzia, anzi un'indagine, insomma, forse per peculato, forse nel mondo normale uno si dimette e aspetta la conclusione dell'indagine. Nel frattempo, noi comuni mortali, per noi comuni mortali, per coprire il 40% dell'IMU che dovranno pagare i cittadini in base al decreto varato di recente, servono altri 350 milioni. Non so dove li troveranno, qualche idea ce l'ho, ma lo ha confermato oggi il presidente dei comuni italiani del Lanci, Piero Fassino. Tanto chiediamo al Parlamento di confermare quello che c'è scritto nel decreto, cioè che ai comuni verrà erogato il 100% di quello che avrebbero introiettato con l'IMU e che quindi venga erogato a tutti i comuni, compresi i comuni che hanno alzato le aliquote nel 2013 e non solo a quelli che l'hanno fatto nel 2012. Chiediamo poi che si trovi un modo per evitare che la copertura sia realizzata chiedendo ai contribuenti un contributo che è pari al 40% della maggiore aliquote che devono essere coperte. È una cifra che globalmente cuba 350 milioni di euro su base nazionale. Noi crediamo che il Parlamento debba trovare nelle pieghe del bilancio dello Stato le risorse per coprire questi 350 milioni senza chiedere ulteriori contributi ai cittadini. Come sono permalosi i grillini, ma perché devo andare sul sito? Spiegatecelo voi, perché votate contro alla riduzione da 88 a 13 delle poltrone delle società controllate dalla Regione Lazio? Spiegatemelo, sapete tutto, no? Perché poi naturalmente la mia poca intelligenza, la mia stupidità, il mio dilettantismo, quello che volete, mi spiegate perché votate contro, visto che siete stati eletti anche e soprattutto come movimento anticasta, e c'è chi anche ha accusato questo programma di essere portatore di voti per i grillini. Ma dico, perché votate contro la riduzione da 88 a 13 delle poltrone di varie società controllate dalla Regione Lazio? Posso saperlo? Avete presentato 1000 emendamenti, che volete fare? Che me li legga tutti gli emendamenti? Ma dite, cioè, siete così bravi a scrivere una riga: votiamo contro la riduzione delle cadreghe delle società controllate dalla Regione Lazio per questo motivo. Vediamo il primo grillino che me lo scrive, io lo leggo in diretta, senza tanti insulti e sempre con questa spocchia che da una parte tutti bravi, dall'altra tutti cattivi. Andiamo avanti, via. L'inflazione resterà bassa ancora a lungo, lo dice Mario Draghi, mi sembra l'ultimo dei problemi che ha in questo momento l'Europa. Based on our regular economic and monetary analysis, we decided to keep the key ECB interest rates unchanged. Sulla base delle nostre analisi economiche e monetarie, abbiamo deciso di lasciare invariati i tassi di interesse. Le attese riguardo l'inflazione nell'area euro, nel medio-lungo termine, continuano ad essere ancorate e in linea con l'obiettivo di un'inflazione al di sotto, ma vicina al 2%. Alla luce di questo scenario, nell'area euro potremmo assistere a un periodo prolungato di bassa inflazione, seguito da un graduale movimento al rialzo, a un livello al di sotto, ma vicino al 2% più avanti nel tempo. Our monetary policy stance. Di conseguenza, la nostra politica monetaria rimarrà accomodante per tutto il tempo necessario. Allo stesso tempo, continueremo ad assistere a una ripresa graduale dell'economia nell'area euro. Il Consiglio conferma di aspettarsi di mantenere i tassi di interesse a livello attuale o più basso per un protratto periodo di tempo. Queste attese sono basate su un contesto in cui l'inflazione rimarrà debole nel medio termine. Continuiamo a monitorare da vicino la condizione dei mercati e il potenziale impatto sulle linee della nostra politica monetaria. La BCE è pronta a considerare tutti gli strumenti a disposizione. All available instruments. Quanto mi piace l'inglese di Mario Draghi. Basis on our regular analysis. Oh, Alessandro Merli da Francoforte, buonasera Alessandro. Buonasera a voi. Mamma mia, non mi fa sta voce da Francoforte ogni volta. Io capisco che sei in Germania, che si sta meglio da altre parti. Però dai, i tassi li ha mantenuti invariati. Ha detto che userà tutti gli strumenti, come quella volta che difese l'euro dicendo metteremo in campo tutti gli strumenti convenzionali, non convenzionali, per difendere l'euro. Non mi sembra che il mercato abbia reagito bene. In realtà tutte le borse oggi sono deboli, ma Draghi oggi ha parlato come un comandante militare. Gli strumenti, abbiamo artiglieria potente, abbiamo una potente artiglieria di strumenti da mettere in campo. Non vorrei la risposta della Chio dopo il meteo, non vorrei che Draghi temesse, alla luce anche di alcune agenzie di rating, di cose che leggiamo in giro, che alcuni mercati, forse anche investitori, per un eccesso di liquidità si stiano preparando a un nuovo attacco speculativo sul debito di alcuni paesi dell'euro. La risposta dopo il meteo. Io non posso passare la giornata, la puntata a leggere gli insulti dei grillini. Ho solo detto: mi spiegate perché votate contro la riduzione delle poltrone delle società controllate dalla Regione Lazio? Invece di insultarmi, si informi, legga il blog di Grillo, ma altre cose da fare nella vita. Me lo dite o non me lo dite? Un messaggino brevissimo: perché avete presentato 1000 emendamenti per bloccare la riduzione da 83 a 17 delle poltrone, da 88 a 13, scusatemi, delle poltrone di società controllate? Sono 75 poltrone in meno. Me lo spiegate? Io lo leggo. Meteo. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Sto ancora aspettando di sapere dai grillini perché hanno votato contro 1000 emendamenti addirittura per ridurre le poltrone delle società partecipate dalla Regione Lazio. Aspetto ancora. Non ho detto che non mi informo, ho detto semplicemente perché non me lo spiegano loro invece che dire vada sul sito di Grillo. Alessandro Merli, allora, cos'è, Mario Draghi con l'elmetto di nuovo? Ma Mario Draghi poi si è corretto, prima ha detto c'ho questa artiglieria potente per combattere eventuali disinflazioni troppo pronunciate o deflazioni. Sì, ecco, fai bene a precisare che è per la disinflazione. Poi alla fine ha detto ma forse artiglieria è un'espressione troppo militaresca, parliamo di gamma di opzioni che la BCE ha per fare quello che deve fare. In realtà credo che i mercati si comincino a chiedere un po' quando e come userà questi strumenti che ha a disposizione. Oggi in conferenza stampa ne sono venuti fuori diversi, cioè un'altra possibile fornitura di liquidità alle banche, magari cercando di fare in modo che invece di acquistare titoli di Stato come hanno fatto le altre volte facciano effettivamente arrivare i soldi all'economia reale. Tassi negativi sui depositi che le banche tengono presso la Banca Centrale Europea, certo, sempre con l'intento di costringerle o di convincerle a fare i prestiti alle imprese e alle famiglie, acquisto di titoli. Sappiamo che tutte queste opzioni sono state valutate dentro la BCE, ma che hanno tutte delle controindicazioni che fanno sì che la BCE si resti ad usarle a meno che la situazione non peggiori, non precipiti. Al momento, secondo le previsioni nuove sull'economia e sull'inflazione che hanno fatto oggi, la situazione resta molto critica. L'inflazione è molto bassa, molto più bassa di quello che dovrebbe essere, perché l'obiettivo è di stare sotto ma vicino al 2%, e invece saremo ancora nel 2000, l'anno prossimo saremo all'1,1, nel 2013 all'1,3, l'economia continua, se va bene, a crescere in modo asfittico o anemico e quindi la situazione è critica ma non disastrosa. Draghi dice insomma non siamo ancora al punto da dover usare queste armi che altri suoi colleghi hanno definito estreme. Certo, ancora per quello che riguarda la posizione di Draghi, in effetti lo ribadisco anch'io, Draghi è preoccupato per la deflazione, cioè per dei prezzi che so che sembra paradossale, ma aumentano troppo poco, la BCE ritiene con un livello buono di inflazione il 2%, se sei molto sotto, noi siamo praticamente quasi in deflazione, in alcuni paesi siccome lo siamo già, cioè i prezzi calano invece che crescere, è altrettanto preoccupante quanto un eccesso di inflazione. Se c'è troppa inflazione, se i prezzi corrono troppo, cosa fai? Aumenti i tassi di interesse, cioè rendi il denaro più caro, quindi la gente spende un po' di meno, i prezzi si raffreddano. Se i prezzi sono troppo bassi, cioè crescono troppo poco, cerchi di usare appunto altri strumenti, perché il motivo è molto chiaro per cui questi prezzi non crescono, non ci sono consumi in Europa o sono molto bassi. Allora la Banca Centrale Europea comunque ha migliorato le stime sulla crescita per l'area euro e anche sull'inflazione, ha limato diciamo le stime sull'inflazione, però ha detto attenzione, il risanamento dei bilanci dei vari paesi non passi attraverso nuove tasse. The economic analysis. Output is expected to recover at a slow pace. Riguardo l'analisi economica, la ripresa dovrebbe muoversi con un ritmo lento, sostenuta dai miglioramenti sul fronte della domanda interna, grazie alla politica accomodante. L'economia dell'area euro dovrebbe anche beneficiare del graduale aumento dell'export. Inoltre, il miglioramento generale sui mercati finanziari, iniziato lo scorso anno, pare si stia trasferendo gradualmente all'economia reale, così come si dovrebbero sentire gli effetti del consolidamento dei conti pubblici. Allo stesso tempo, la disoccupazione nella zona euro rimane elevata. I rischi che circondano le prospettive economiche dell'area euro sono previsti al ribasso e sono legati in particolare agli sviluppi e alle incertezze sui mercati finanziari globali, che potrebbero avere un impatto negativo sull'economia. Altri fattori di rischio derivano dagli alti prezzi delle materie prime, da una domanda interna più debole del previsto e da un lento o insufficiente miglioramento delle riforme strutturali nei paesi della zona euro. In particolare, le politiche di risanamento dei conti pubblici nell'eurozona dovrebbero favorire la crescita e avere un'ottica di medio termine, minimizzando gli effetti distorsivi di un aumento delle tasse. And have a medium-term perspective and minimize the distortionary effects of taxation. Alessandro Melli, nel salutarti, ma insomma anche Draghi capisce molto meglio di me e di te che lui può abbassare i tassi quanto vuole, può rendere anche negativo il tasso con cui quello che le banche guadagnano, quindi diventa negativo se depositi i soldi alla Banca Centrale Europea di notte e li ritiri di giorno, però se qui non ripartono politiche sulla crescita, tu puoi avere i tassi bassi quanto vuoi, ma tanto la gente non spende, cioè lì si ferma la politica della BCE. Beh, anche perché la politica della BCE ormai è a fine corsa, nel senso che i tassi sono allo 0,25%, li può portare forse a zero, ma questo chiaramente non sarà il fattore decisivo per far ripartire l'economia europea, per quello che si parla di eventuali altre misure, forniture di liquidità per fare avere il credito all'economia reale, eccetera, eccetera. Però su questo Draghi è sempre stato abbastanza fermo, cioè da mesi che ripete noi abbiamo fatto la nostra parte, certo. Abbiamo ancora degli strumenti o l'artiglieria, come dice, però insomma politica monetaria arriva solo fino lì, per quello che ha ripetuto oggi la necessità di fare delle politiche che promuovano la crescita. Non ne vedo molte in giro, anche Olli Rehn di nuovo oggi ha parlato, ma adesso ne parleremo nella seconda ora del programma. Grazie Alessandro Merli, il corrispondente del Sole 24 Ore da Francoforte. Il traffico e poi la borsa che ha chiuso sui minimi, -1,75%, 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia su Facebook. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni, aspetto ancora di capire perché il Movimento 5 Stelle della Regione Lazio ha votato contro, ha messo 1000 emendamenti bloccando la possibilità di portare le sedie delle società partecipate della Regione Lazio stessa da 88 a 13. Ora io dico una cosa però, come dice Rigoletto, per me, anzi il Don Giovanni, scusate, per me questa è quella parison, perché? Perché se critichiamo il PDL, Forza Italia, Berlusconi va bene, se critichiamo il PD va bene, Monti va bene, criticare Letta va bene. Se io mi permetto di dire che non ho capito perché i grillini stiano facendo questo ostruzionismo alla Regione Lazio e dico e mi scrivete vattelo a leggere, vengo riempito di insulti perché ce l'ho con i grillini. No, e non mi sta bene la spiegazione che mi ha mandato un ascoltatore dicendo ma volevano, eccola qua, non è contrario alla riduzione delle sedi nella Regione Lazio, ha solo presentato centinaia di emendamenti, forse sbagliando, non per ostruire il singolo provvedimento ma solo per essersi reso conto che le sue proposte venivano scartate con pregiudiziale. Ma io non ho capito niente. Vabbè, intanto facciamo la borsa. Meno 1,75% Milano, Parigi meno 1,20%, Francoforte meno 0,60%, Londra meno 0,20% e l'America meno 0,20%. Le parole di Draghi non hanno rassicurato i mercati, anzi male oggi tutte le banche italiane, ma anche il gruppo Fiat che è tra i peggiori, anzi peggiore, meno 3,71%. Guido Maurino, Radio Cori, Sole 24 ore, buonasera. Buonasera. Partiamo allora dal giudizio complessivo sulle banche, poi dopo il GR faremo anche gli altri titoli. Sì, per quello che riguarda le banche pesano un po' le notizie provenienti dagli Stati Uniti, perché c'è stata questa revisione al rialzo del PIL nel terzo trimestre negli Stati Uniti dal 2,8 al 3,6%, un membro della Fed, il presidente della Fed di Atlanta, Lockhart, ha detto che a questo punto si potrebbe anche pensare a rivedere la politica di acquisti di asset che sta portando avanti la Federal Reserve già a dicembre. Questo porterebbe a una minore liquidità sui mercati e tutto questo ha fatto aumentare un po' i rendimenti dei titoli di Stato, e le banche che avevano aperto piatte senza particolare né lode né infamia nel corso del pomeriggio hanno ceduto parecchio. Ci sono temi specifici come quello del Monte dei Paschi che si interroga ancora sulle mosse della fondazione in vista dell'aumento di capitale, ma anche le altre banche, perché Intesa San Paolo ha ceduto il 3,42%, Popolare di Milano il 3,12%, Unicredit il 2,5%, hanno risentito di questi timori su una minore liquidità dei mercati. Allora, una correzione, avevo detto bene, era il Duca di Mantova nel Rigoletto, questo o quella per me Parison, ricordavo bene, invece poi mi sono autocorretto con un Don Giovanni, dove potremmo invece applicare un Leporello che dice io non posso più servir notte e giorno a faticar, ma non riguarda noi, riguarda diciamo altre persone che stanno scrivendo. Invece, se ho ancora un minuto, ho 50 secondi, 40 secondi, peggio mi sento, Fiat meno 3,70. Sì, per quello che riguarda Fiat va ricordato che ieri era stato un titolo ben comprato, aveva guadagnato oltre 1,5% grazie alle vendite di auto Chrysler negli Stati Uniti che avevano sostenuto le quotazioni. Oggi un po' di prese di beneficio e anche un po' di scetticismo che ha riguardato gli industriali, perché oltre alle vendite sui bancari anche gli industriali oggi hanno pagato fortemente dazio, perché oltre al Fiat meno 3,71 c'è anche un Finmeccanica meno 2,6%, sì. CNH meno 2,40. Questo spiega un pochettino anche l'andamento di Fiat. Dopo GR gli altri titoli, 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia su Facebook. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Forse riusciremo anche a darvi una risposta. Ripeto, la mia era una domanda, non era una critica. Volevo sapere perché alla Regione Lazio il Movimento 5 Stelle ha presentato 1000 emendamenti contro un provvedimento che, da quello che abbiamo letto, deve portare le poltrone delle società controllate dalla Regione Lazio, che viaggia amabilmente con un indebitamento di 22 miliardi, 24 miliardi di euro, da 88 a 13. Ci stanno scrivendo gli ascoltatori, forse riusciamo a parlare anche con un consigliere del 5 Stelle alla Regione Lazio, perché il provvedimento non taglierebbe i dirigenti e i costi ma li sposterebbe in un unico carrozzone affidato alla guida di un fedelissimo, immagino, di Zingaretti, senza risparmio per le casse regionali. Può essere che sia così, volevamo solo una risposta, tutto qua, senza piccarsi troppo. Non capisco perché dei 1000 emendamenti. Comunque adesso vediamo se riusciamo a parlare anche con un consigliere, visto che sono riuniti e questo va detto. Chiudo però l'approfondimento con Guido Maurino di Radio Corriere Sole 24 Ore. Per quello che riguarda invece, oltre ai titoli bancari e Fiat che abbiamo già commentato, comunque ricordo Popolare Emilia Romagna -3,60, Intesa San Paolo -3,40, Monte dei Paschi -3,20, Popolare Milano -3,12 e Banco Popolare -2,5 come Unicredit, vorrei chiudere su BIM e Autogrill. Anche Fondiera Sai va bene oggi, +2,32%, Autogrill +1,5% e BIM. Prego Guido. Sì, tra uno dei pochi, probabilmente l'unico bancario che oggi è andato bene è stato BIM, Banca Intermobiliare, che ha guadagnato 2,75% dopo la notizia che Veneto Banca ha messo in vendita la sua quota di maggioranza nell'istituto piemontese nell'ambito di un piano di rafforzamento patrimoniale che riguarda proprio Veneto Banca. Ci sono diverse attese su possibili compratori e questo ha fatto sì che il titolo si mettesse in luce oggi a Piazza Affari. Per quello che riguarda Fonsai, oggi c'è stato uno studio di Moody's sul settore assicurativo in cui si mette in luce come le compagnie che possono ambire ad andare meglio sono quelle più esposte nel settore danni piuttosto che quelle esposte nel settore assicurazione vita. Fonsai è una di queste e ha approfittato di questo report di Moody's. Per quello che riguarda Autogrill, infine c'è una ripresa delle quotazioni dopo che ieri si erano diffuse delle indiscrezioni sul mercato che davano la possibilità che Edizione, la holding della famiglia Benetton, potesse cedere un ulteriore 9% in Autogrill. In serata è poi stato chiarito che in realtà non c'è nessun ulteriore pacchetto di Autogrill in vendita, ma semplicemente Autogrill sta guardando al mercato in vista di possibili operazioni di fusione, di alleanza, e questo ha riportato oggi un più serenità sul titolo che ha chiuso a +1,52%. Migliori e peggiori in assoluto: Neurosoft +16,17, Digital Brothers +11,80, Basic Net +8,80 e poi Ageas +3,80%. Fronte opposto invece c'è HL -6,70. Cofide -4,70, Brembo -4,20, Ciccolella -3,92%. Grazie a Guido Maurino, Radio Corriere Sole 24 Ore. Grazie. Allora, non disperate, riusciremo a parlare anche con 5 Stelle. Mi sembra dai messaggi che stanno arrivando che il motivo, visto che ce ne sono tanti dello stesso tenore, e per correttezza, come sempre, li leggiamo tutti, che appunto la critica sia un provvedimento che non, ripeto, che non taglia i dirigenti e i costi, ma li sposta in un unico carrozzone, in un'unica società. E questa è la critica. Vediamo di verificarlo per correttezza di informazione, e sempre per correttezza di informazione, però vorrei entrare a gamba tesa sulla vicenda dei maiali oggi portati anche dalla Coldiretti a Roma, dopo che ieri verrà stato il blocco del traffico sul Brennero. Allora, la Coldiretti lamenta che in un settore dove dalla stalla al salumiere, diciamo, trovano occupazione 105.000 persone, ci siano praticamente i prodotti agroalimentari venduti in Italia ed esportati con marchio Made in Italy che contengono materie prime straniere per circa un terzo della produzione. Per esempio, 2 prosciutti su 3 venduti come italiani ma provenienti da maiali allevati all'estero, 3 cartoni di latte lungo conservazione su 4 che sono stranieri senza indicazione di etichetta, 1/3 della pasta ottenuta dal grano che non è stato coltivato in Italia, 1/2 delle mozzarelle fatte con latte o addirittura cagliate straniere. Un manifesto di 4 punti indirizzato al governo, la manifestazione appunto degli allevatori della Coldiretti oggi a Roma. Il presidente Roberto Moncalvo, al microfono la nostra Alessandra Schepisi. Dobbiamo chiudere quella grande battaglia di trasparenza che serve prima di tutto ai consumatori italiani, perché abbiano la possibilità di scegliere davvero con tutte le informazioni che cosa comprare e quale vero Made in Italy vogliono difendere e tutelare, che è quello che nasce nella qualità del lavoro degli agricoltori, delle stalle italiane, dei campi italiani. e l'altro punto è finalmente porre fine a una situazione paradossale. In un mondo in cui le merci devono giustamente circolare in modo libero, succede che noi non possiamo sapere, perché i dati sono segreti, quanto entra nel nostro paese, cosa entra nel nostro paese e soprattutto verso quali stabilimenti va. Questa è una situazione paradossale che dobbiamo assolutamente risolvere. I dati sono in mano al Ministero della Salute, dobbiamo averli pubblici. Quanto è stata colpita dalla crisi questo settore dell'agricoltura? Il nostro settore è colpito in modo importante. Negli ultimi anni abbiamo perso circa 30.000 imprese, nell'ultimo anno, proprio anche legato a questa mancanza di valore anche economico del prodotto agricolo italiano, che viene messo in concorrenza sleale con ciò che entra alle frontiere e per cui non abbiamo un'origine certa. E poi parlando di filiera suinicola, nell'ultimo anno abbiamo perso 8.000 posti di lavoro, non ce lo possiamo permettere. Allora, una cosa va detta: un conto è criticare il fatto che prodotti marchiati poi Made in Italy vengono fatti con suini, bovini, latte preso dall'estero. Faccio notare che allora alla Bresaola smettiamo di venderla direttamente, perché chi va in Valtellina e vede un maiale inteso come animale mi telefoni, perché non se ne vede più uno. Per cui io su questo starei attento al protezionismo. Se poi noi lavoriamo della materia, chiamiamola così, prima, e la trasformiamo in prodotti a alto valore aggiunto del Made in Italy, io non so cos'altro dovremmo fare. Però quello che non condivido, lo dico con molta serenità alla Coldiretti, è mettere di mezzo la sicurezza alimentare. E a mio avviso ha ragione oggi Assocarni, Assica si chiama in realtà, l'associazione dell'industria delle carni, che al microfono del nostro Simone Spezzi ha detto nel corso di Effetto Giorno: ogni giorno le 6.500 imprese italiane ricevono 2.800.000 analisi di autocontrollo, sono 1 miliardo di analisi all'anno. Noi non scherziamo mai con la sicurezza. Ecco, vogliamo parlare della tutela dei bovini, dei suini italiani, va bene mettere in mezzo e far dare il messaggio che quelli che arrivano dall'estero, dalla Germania o dalla Francia, mettono a repentaglio la sicurezza alimentare, è a mio avviso scorretto, perché la sicurezza alimentare la garantisce sul prodotto il paese in cui il prodotto viene realizzato. Comunque, ringrazio per averci raggiunto in collegamento il presidente di Federalimentare, quindi sono tutti gli aderenti del mondo dell'agroalimentare, aderenti a Confindustria. Filippo Ferro e Magliani, buonasera. Buonasera. Mi dica una cosa, insomma, perché anche in questo programma, anche con voi, con la Confcommercio, con la Coldiretti, abbiamo sempre difeso la battaglia contro, ho detto la Bresaola, mi fanno notare che ho detto che la Bresaola di maiale, avete ragione, volevo dire di manzo, no, per favore, ogni tanto in diretta qualcosa scappa, chiedo venia ai valtellinesi e a tutti gli amanti, incluso sottoscritto, della Bresaola. Chiudo questa correzione dicendo: noi abbiamo sempre difeso la battaglia contro la falsificazione, ma anche l'Italian sounding, cioè quel cibo che viene spacciato per italiano perché assomiglia alla bandiera italiana, si chiama parmigiano, così, però ha un valore che è 3 volte al nostro export nell'agroalimentare e ci danneggia. Però qui mi sembra che la battaglia sia un po' diversa, cioè se non abbiamo abbastanza maiali, vacche e quant'altro, cosa facciamo? Smettiamo di produrre le quote necessarie, le quote che ci chiedono? Se permette, questo è il punto di confusione che esce, diciamo, da questa manifestazione da Coldiretti, perché se la prima parte del discorso, combattere la contraffazione e l'Italian sounding, siamo perfettamente allineati col ministro, con gli agricoltori, facciamo quello che possiamo anche noi, evidentemente con l'aiuto dell'ICE, con le fiere che facciamo all'estero, e qui la battaglia è chiara: dobbiamo recuperare questo spazio enorme, sono 60 miliardi di valore che potrebbero farci crescere anche nelle nostre produzioni. Però ci facciamo del male se incominciamo a insinuare il dubbio che i prodotti che esportiamo, contenenti anche materie prime che vengono dall'estero, non si possono più considerare Made in Italy. Questa è un'assurdità e questa è una cosa contro cui noi dobbiamo combattere, perché Il Made in Italy non è fatto solo delle materie prime, che pure sono importanti ovviamente, ma è fatto di intelligenza, di ricette, di cultura, di tradizione, tutto un insieme che vale questa etichetta di Made in Italy, per il quale siamo famosi nel mondo, perché sennò non avremmo l'espresso, non lo potremmo considerare Made in Italy, perché non ci sono chicchi di caffè in Italia. Ma posso anche fare ad esempio la Ferrari, è un Made in Italy sicuro, ma non c'è mica tutta la parte meccanica fatta con materiali italiani, lì c'è intelligenza che fa il Made in Italy, e questo deve essere chiaro, altrimenti ci facciamo del male, e per giunta può succedere quello che accennava lei prima, cioè che cominciamo a immaginare che quello che viene da fuori Italia sia poco sicuro, di bassa qualità. Anche questo è da contestare, perché la selezione delle materie prime è una responsabilità che si prendono i produttori italiani e che ci mettono poi sì. Il loro nome, il loro marchio, e con questo garantiscono qualità e sicurezza. Allora, fermo restando che l'ho detto in diretta, volevo dire bovina, ma è vero che poi è mucca o anche cavallo, ma la Bresaolo non si fa col maiale. Adesso non è che posso fare l'appello tutta la diretta, è stato un refuso. Ho chiesto bene ai valtellinesi, ai maiali, a tutti, alle mucche, per cui ai produttori di Bresaolo. Ho detto che la Bresaola mi piace tantissimo. Cosa devo fare di più? Stavamo parlando di maiali, ho fatto una crasi, diciamo, tra i maiali della Coldiretti di oggi a Roma e la produzione di Bresaola. Detto questo, però, presidente Federalimentare, dopo il traffico, vorrei sapere una cosa. L'obiezione è: va bene, non sono abbastanza maiali, abbastanza mucche, abbastanza latte, abbastanza. Perché la importiamo? Potremmo produrne di più noi. Ecco, vorrei sapere se questa obiezione, al di là dell'essere così bella da sentirsi dire, è anche realistica, oppure le proporzioni sono talmente alte che non riusciremo mai a soddisfare il fabbisogno della nostra industria alimentare. La risposta dopo il traffico. Allora, presidente Federalimentare, fermo restando che molti scrivono: attenzione, le bestie italiane, i bovini, i suini italiani sono migliori come qualità, noi non usiamo gli estrogeni. E infatti uno giustamente può scrivere nel prodotto: macellato solo con carne italiana, solo latte italiano, solo arance italiane. Questo va bene, ma ha un senso il ragionamento, invece di continuare a importare, aumentiamo la nostra produzione, in questo caso di bovini e suini? Ma guardi, senso c'è sicuramente, l'operatività poi è una cosa un po' diversa, cioè noi abbiamo fatto delle scelte di politica industriale nel passato che hanno certamente preso direzioni diverse da quella dell'agricoltura. Adesso recuperare questo bisogna, queste sono le cose da chiedere appunto ai politici romani e soprattutto chiedere magari anche interventi di sostegno per rendere più moderna, più competitiva l'agricoltura attuale. Poi c'è il discorso delle superfici. Mancano le superfici perché c'è un'urbanizzazione sia industriale, poi ci sono le strade, le ferrovie, c'è tutta una materia molto complicata. È prevista una legge, mi pare un disegno di legge, che dovrebbe cercare di limitare l'impiego ulteriore di superficie a fini, non so, industriali, senza aver prima riconvertito tutti gli edifici che sono stati abbandonati. Sì, però insomma, in questo momento il rapporto che c'è tra suini, mi sembra che sia 6-1, suini importati, vacche importate, latte importato, non è un rapporto che tu riesci a colmare a breve? Assolutamente, su questo sono assolutamente d'accordo. E comunque mi raccomando, per non farci del male da soli, un conto, ripeto, è dire che se tu usi materiale prima italiana devi metterlo e metterlo in evidenza, va benissimo. Dire che però l'industria alimentare italiana che va a macellare e a utilizzare materia prima presa all'estero è meno sicura significa fare un male all'industria alimentare italiana stessa, perché poi i protocolli di sicurezza li decide il paese, gli ispettori li manda lo Stato italiano, il Ministero italiano. Per cui per favore non diciamo bestialità su questo, perché poi viene fuori che il prosciutto o appunto la Bresaola o quant'altro prodotta con bestie che vengono dall'estero non è sicura, e così ci facciamo di nuovo del male da soli. Grazie Presidente. Federalimentare, ultimo tema, perché appunto ce l'abbiamo fatta grazie anche alla loro disponibilità. Mi interessava molto capire il perché il Movimento 5 Stelle avesse presentato più di 1000 emendamenti contro un provvedimento della Regione Lazio che andava, da quello che abbiamo capito, ridurre le poltrone delle partecipate della Regione Lazio stessa da 88 a 13. Molti ascoltatori ci hanno scritto perché in realtà il provvedimento non va a tagliare i costi, ma le metterebbe tutte sotto un'unica società. Alcuni scrivono carrozzone. Chiedo conferma all'avvocato Gianluca Perilli, che è consigliere regionale della Regione Lazio del Movimento 5 Stelle. Buonasera, avvocato. Sì, buonasera a tutti. Buonasera a tutti. Allora, abbiamo capito bene, finalmente, grazie agli ascoltatori, devo dire in questo caso, non grazie al sottoscritto, perché vi opponete a questo provvedimento? Avete capito bene, io vi ringrazio anche di questa opportunità che fa riportare un po' di chiarezza rispetto a un argomento che è molto delicato e quindi si presta a facili strumentalizzazioni. Infatti la riorganizzazione delle società partecipate dalla Regione, che lo ricordiamo per chi non sappia cosa sia, sono delle società esterne all'amministrazione create già sin dalla giunta di Badaloni fino adesso, e sono svolgono funzioni della Regione, ma sono delle articolazioni esterne e hanno una natura un po' ibrida, che sono degli strumenti, hanno una forma privatistica societaria e da una parte anche delle caratteristiche invece pubblicistiche, di carattere pubblico. E che il progetto, la proposta di legge che è attualmente in discussione là in aula, vorrebbe raccogliere sotto un'unica holding, che è la Sviluppo Lazio, non 9, 5, ma sono praticamente 4 altre società in house, quindi la riduzione anche dal punto di vista di chi la propone è da 4 a 1. Approfitto per dire, questo lo dico con grandissima chiarezza, che il Movimento 5 Stelle l'ha scritto nel programma regionale prima delle elezioni, che addirittura è per l'abolizione, la dismissione di tutte le società in house, ovviamente curando il processo. Ho capito, lei dice andrebbero, non verrebbero eliminate queste poltrone, perché abbiamo ancora 2 minuti scarsi. Sì, no, non vengono assolutamente eliminate, è un'apparente riorganizzazione e il problema, noi invece stiamo battendo proprio per la riduzione di dirigenti, un rapporto di 30 dirigenti, un dirigente per ogni 30 dirigenti. Vabbè, su questo qua risponde una porta aperta con noi. Mi dica una cosa però, perché presentare più di 1000 emendamenti? Non ne bastava? Questo è un vecchio modo di fare ostruzionismo, no? Guardi, allora, noi lo chiamiamo costruzionismo non per giocare con le parole, perché... costruzionismo, ostruzionismo, sì, dai. No, le spiego il motivo. Sempre quella, Non è... No, non è una questione inutile, nel senso che gli emendamenti servono a modificare una legge che va in danno dei cittadini, quindi nel rallentare i tempi, nello stesso tempo costringere una maggioranza che ha i numeri per farla approvare ad accogliere degli emendamenti che noi disperatamente, come esercizio democratico di difesa dei soldi dei contribuenti, cerchiamo di far capire. È evidente che da parte della maggioranza si fa passare un concetto molto semplice, una formula mediatica, no? La riduzione 4 a 1 vince sicuramente, ma se non viene detto che questa razionalizzazione è solo apparente, che ci sono dei costi molto più alti e che non si fa quel taglio che si dice di fare. Ho capito benissimo e mi fa molto piacere che siate riusciti a spiegarla anche al sottoscritto che non la sapeva. Sono meno d'accordo con lei, ma non si può essere d'accordo su tutto, sulla tecnica, sul filibustering, sull'ostruzionismo, lei chiama costruzionismo, insomma, a me ricordo qualcosa di vecchio, però ho capito benissimo e mi piace poter dire bene, adesso andremo a vedere anche domani con la Regione Lazio se effettivamente queste poltrone non vengono segate ma solo spostate. Non sarebbe la prima volta in questo paese, quindi ci può stare. Grazie al consigliere regionale del Movimento 5 Stelle della Regione Lazio, Gianluca Perilli. Da Sebastiano Barisoni, l'augurio di buona serata. Ci risentiamo domani dalle 17 in poi.